Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti, da Olga, siete su Radio Città Fucico e questa è Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Abbiamo appena abbandonato, si fa per dire, maggio, che era stato il mese dedicato alla working class, con una puntata in cui la nostra Deb ci parlava delle sex worker, ripercorrendone la storia nella Seconda Repubblica, e che potete riascoltare sul nostro sito www.radiovanloon.info. Inauguriamo questo nostro ultimo mese di puntate di questa stagione all'indomani del 2 giugno, che quest'anno, come abbiamo notato, finalmente è stato festeggiato senza parate militari. Continuiamo a parlare della festa della Repubblica e soprattutto del voto delle donne che si recano alle urne per la prima volta nella storia d'Italia. Ma come si è arrivata al voto? Un mito da sfatare è che il voto alle donne sia stato calato dall'alto dal governo di Roma, benché è chiaro chi prendeva le decisioni era una classe politica tutta maschile e che era appena uscita da una guerra civile e da una guerra di liberazione. Sarebbe meglio parlare di conquista del voto, anche se permane ancora dopo più di 70 anni una certa visione di questa storia in cui si parla di diritto regalato, una vera cartina al tornasole di uno scarto numerico e rappresentativo importante tra uomini e donne nelle cariche che contano davvero ancora adesso, in cui ci si scontra con vecchi pregiudizi sulle attitudini femminili a fare politica e il carattere di una classe politica che tende a riprodurre e a riprodursi. Dobbiamo comunque fare un passo indietro per arrivare a quel 2 giugno 46 e tornare in piena guerra. Sul giornale clandestino, allora clandestino, Noi Donne, l'organo dei gruppi di difesa delle donne, in data 25 ottobre 44, ovvero in piena guerra in un'Italia divisa in due, si legge che la commissione per il voto alle donne dell'UDI si reca dal presidente del Consiglio Bonomi per, e cito, esprimere la necessità che venga concesso alla grande massa femminile il diritto di partecipare alle elezioni amministrative. Il Presidente del Consiglio ha assicurato le delegate di tutto il suo interessamento per questa importante questione. L'UDI, cioè l'Unione Donne Italiane, inoltre avvia una petizione da far firmare dal maggior numero di donne possibile per richiedere appunto al Governo di Liberazione Nazionale il diritto di voto e di eleggibilità. Il 30 gennaio 45 il Consiglio dei Ministri, su proposta di Alcide De Gasperi e Palmiro Togliatti, approva all'unanimità il decreto legislativo che estende il diritto di voto alle donne. Tuttavia nel decreto si dimentica di sancire il diritto di eleggibilità delle donne, quindi dell'entrata delle donne nelle istituzioni, per cui occorrerà un nuovo decreto, cioè quello del 10 marzo 1946. Ecco come Nil De Jotti ricorda il momento in cui si sparge la notizia nell'Italia occupata del diritto di voto alle donne. Io ricordo di aver fatto riunioni per le donne, sulla parità per le donne, sul voto alle donne, su queste... Il voto che peraltro a noi arrivò, la notizia, all'inizio di febbraio del 45, quando eravamo ancora occupati. Io ricordo che avevo un appuntamento una sera con quello che era allora... che era il mio capo, mi dava ordini e mi disse: «Hai visto che hanno dato il voto alle donne?» E io gli ho detto proprio con stupore: «Ma io vorrei vedere il contrario!» Ma molto scandalizzata, mi pareva strano, perfino strano che quello... Tanto che lui ha detto: «Ma io sono d'accordo, mica son contro!» E dico: «Beh, vorrei sperare, scherziamo, torniamo ancora ai tempi in cui le donne a casa e gli uomini invece che votano?» E lui disse: «No, no, anzi, il governo di Roma ha esteso il voto alle donne!» La notizia è di quelle davvero epocali, ma la stampa non mette troppo in risalto una svolta così radicale nell'ordinamento giuridico e soprattutto nella vita quotidiana di metà della popolazione. Emblematiche, per fare solo un esempio, saranno le parole del nostro giornale cittadino, Il Resto del Carlino, che in un breve articolo del 1 febbraio 45 chiosa: «Mentre si muore di fame, ci si preoccupa del voto alle donne». Prima dell'Assemblea Costituente esiste un altro organo che guida l'Italia verso il 2 giugno, è la Consulta, ed è il primo vero banco di prova del ruolo politico delle donne. La consulta è un'assemblea legislativa provvisoria che sostituisce il Parlamento ed è in carica dalla fine di aprile del 45, quindi dalla liberazione, al 2 giugno. Il presidente è Carlo Sforza, le donne a parteciparvi sono 13 su 440 membri. Angela Guidi apre la vita politica e istituzionale delle donne italiane, perché è suo il primo intervento di una donna alla consulta. In uno stralcio di questo intervento, Angela Guidi dice: «Non si tema per questo nostro intervento, quasi un ritorno ad un rinnovato matriarcato che non è mai esistito. Abbiamo troppo fiuto politico per aspirare a ciò. Ma comunque, peggio di quello che nel passato hanno saputo fare gli uomini, di certo non riusciremo mai a fare». Well, my friend, it's gonna have to bend. I'm here to tell you about the destruction of all the evil it will have to end. To stay Siamo tornati sulle frequenze di Radio Città Fucico e siete su Vallone, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Abbiamo appena ascoltato la canzone di Nina Simone, Revolution, che è una canzone appunto che parla di rivoluzione e una canzone che dedichiamo alle proteste americane, sì, appunto di questi giorni. Stiamo parlando di come le donne sono arrivate alla prova dei fatti, al 2 giugno 1946. È il 2 giugno 46 e contro le più pessimistiche previsioni che ritenevano le donne non in grado oppure non interessate alla politica e quindi non interessate al voto, si recano alle urne l'89% delle donne e l'89,1% degli uomini, una sostanziale parità. Un dato interessante è che nel sud Italia le donne votanti superano gli uomini di 1,3 punti percentuali. Allo spoglio 21 donne sono elette per scrivere la Costituzione e sono così distribuite. Sono 9 del Partito Comunista Italiano, 9 della Democrazia Cristiana, 2 del Partito Socialista di Unità Proletaria e 1 del partito che poi a breve, dopo breve, scomparirà, l'Uomo Qualunque. Tutte le fonti sono d'accordo nell'osservare che nonostante le diverse fedi politiche, le donne costituenti trovano un'intesa che permette loro di far passare contenuti di fondamentale importanza prima dei rispettivi gruppi parlamentari e poi nel dibattito di ciascun articolo. Ascoltiamo ancora le parole nel ricordo di Nilde Iotti. Non avevamo ancora l'abitudine ad avere degli scambi di idee tra di noi, ora che eravamo chiamate a condurre un'azione comune per l'affermazione dei diritti delle donne nella Carta Costituzionale. Successe però che quasi istintivamente riuscimmo a trovare delle posizioni comuni, conducendo anche un lavoro prezioso, anche se non molto visibile, all'interno dei nostri gruppi parlamentari per arrivare alla stesura degli articoli fondamentali della Costituzione che riguardavano l'uguaglianza di fronte alla legge, nel lavoro e nella famiglia. Nel 1946 sono già in nuce le battaglie che vedono protagoniste le donne e in particolare il movimento femminista dalla fine degli anni 60, ovvero la fine del matrimonio indissolubile con il divorzio, il diritto all'aborto e il nuovo diritto di famiglia. Tutte leggi varate nel corso degli anni 70 che impongono una svolta radicale nella società italiana. Per parlare della vita delle 21 costituenti abbiamo invitato Micol Cossali, direttrice artistica del Museo Storico del Trentino e una delle curatrici del libro freschissimo di stampa che si chiama Libere e Sovrane, le donne che hanno fatto la Costituzione, edito dalla casa editrice 7-9. Al libro hanno lavorato anche Giulia Mirandola, Mara Rossi, Novella Volani e Michela Nanut. Io passo la parola a Debs che intervisterà Micol. Benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko, Micol. Sei qui per parlarci del progetto Libere e Sovrane. Ci puoi un po' raccontare qual è stato il dietro le quinte di questo progetto e chi ha collaborato insieme a te a questo bel testo? Sì, buongiorno, ciao. Questo progetto appunto adesso è diventato un libro, ma nasce da lontano, insomma, da una mostra che abbiamo realizzato iniziando a lavorarci nel 2015 e poi presentata nel 2016, appunto dedicata alle 21 donne che hanno contribuito a scrivere la nostra Costituzione. E questo progetto, diciamo, è un progetto corale perché siamo coinvolte in 5 e ci sono io, Mara Rossi, Giulia Mirandola, Novella Volani e l'illustratrice Michela Nanut. E si è iniziato pensando appunto a queste donne, a quanto poco noi le conoscessimo, e con l'occasione del 2016, anniversario del diritto di voto alle donne, abbiamo pensato a qualcosa per poterle far conoscere di più. Insomma, all'inizio abbiamo pensato una mostra, poi che è iniziato a girare, partita dal Trentino, però poi in questi anni ha viaggiato in scuole comuni un po' per tutta Italia e poi abbiamo, diciamo, incontrato la casa editrice 7-9, che già conoscevamo, insomma, per i suoi progetti molto belli e interessanti, e da lì è nata l'idea di fare un passo ulteriore e fare diventare questo progetto anche un libro. E quindi, diciamo, vi siete dovute confrontare sia con la parte, diciamo, più storica, ma anche con la parte più di divulgazione. Sì, quello che noi volevamo fare era proprio un progetto di divulgazione, anche se poi quando abbiamo iniziato a lavorarci nel 2015 ci siamo accorte di quanti pochi materiali avessimo a disposizione. Insomma, nessuna di noi è in senso stretto una ricercatrice storica, per cui noi contavamo che ci fossero materiali, insomma, pensando all'importanza di queste donne, no? Che sono state comunque le prime elette in tutta la storia d'Italia, per cui, insomma, ritenevamo fosse un argomento degno di nota e di attenzione. Mm-hmm. Certo, ci sono state soprattutto studiose che insomma, sono occupate di questo, però materiali, diciamo, pubblicazioni di tipo divulgativo alla portata di tutti, insomma, sono state poche, e per fortuna, insomma, nel 2016, proprio in occasione dell'anniversario del 70° anniversario della Repubblica, sono uscite nuove pubblicazioni. Insomma, questo ci ha anche rinfrancato. E dall'altra, insomma, ci ha anche stupito il fatto che, insomma, si dovesse arrivare, insomma, a 70 anni dopo perché venisse riconosciuto, insomma, anche un po' in termini diffusi l'importanza di queste donne, del loro lavoro. E ovviamente questo, come dire, è un problema culturale, cioè non riguarda le storiche o gli storici in senso stretto, ma proprio, come dire, l'opinione diffusa, sì, la consapevolezza. Percezione. Infatti, per dire, anche i nomi sono 21, ma alcune donne sono più conosciute anche perché poi hanno avuto una storia istituzionale anche più lunga, non so, prima fra tutte Nilde Iotti, che è anche forse la più conosciuta. Sì, che è la più conosciuta, ma di molte altre, insomma, non si conosce nemmeno il nome, che, insomma, anche comunque al di là della Costituente, insomma, molte di loro hanno fatto diverse legislature anche in Parlamento, e ovviamente insomma sono figure molto diverse, però pensando all'importanza, no, al fatto che appunto, se pensiamo a tutta la storia, no, del nostro paese, perché poi non si tratta solo del Novecento, e questa è stata la prima volta in cui è stato riconosciuto in qualche modo pienamente il diritto di cittadinanza delle donne con la possibilità di votare e essere elette, e quindi queste sono a tutti gli effetti insomma delle pioniere, e quindi penso che insomma è importante che si conoscano in modo più approfondito, e insomma questa cosa adesso è iniziata, penso che insomma mi augurerei che fosse insomma che aumentasse, e anche magari con lo spunto del nostro libro, che ovviamente non è un approfondimento, ma tratteggia queste biografie, magari però appunto ci auguriamo che sia lo spunto anche poi per indagare di più, conoscerle di più in certo. vari modi. Anche perché io ho avuto la sensazione negli anni passati, soprattutto durante le celebrazioni, che si ricordasse un po' queste 21 come una cosa da mettere a chiusura della storia. Ricordiamoci che c'erano anche 21 donne, però insomma leggendo il libro si capisce benissimo qual è stato l'impatto politico e culturale della presenza di queste donne, soprattutto per quello che riguarda per esempio banalmente la parità uomo-donna, no? Sì, ma anche il fatto stesso che di poter votare, no? di poter essere riconosciute cittadine, è stata allora una novità assoluta, e quindi anche quando non è solo come dire una questione della storia delle donne, ma proprio una questione della storia in generale, no? Quando si parla anche della storia della democrazia o del suffragio universale, cioè finché le donne non votano non si parla di suffragio universale, no? Per cui infatti, come dire, c'è un po' questa tendenza, c'è sempre stata, no? Di considerare anche un po' la storia delle donne come una parentesi a margine, no? Anche nei libri di testo un riquadro a lato, mentre invece è una storia che, come dire, è la storia di tutti noi, no? E questo insomma è importante fare questo, come anche sul tema della parità e dei diritti, insomma, riguardano tutti, no? La nostra storia politica, insomma, che ha creato anche, cioè che ha formato dei cittadini e delle cittadine. Sì, e l'apporto di queste donne è stato fondamentale perché nella Costituzione fosse affermato in modo chiaro la parità di diritti tra donne e uomo, ma anche che fossero affrontate questioni centrali come tematiche legate al diritto di famiglia, che poi dopo hanno trovato applicazione più avanti, però che trovano una radice insomma nella Costituzione, dove viene affermata l'uguaglianza dei coniugi e anche il diritto e dovere di entrambi di occuparsi dei figli, e anche viene affrontato il tema dei figli illegittimi che nati insomma fuori dal matrimonio, che fino a quel momento erano non erano considerati, no, dalla legge, per cui insomma l'apporto di queste donne è stato fondamentale perché la Costituzione potesse essere anche la Costituzione delle donne. Okay. Senti, le biografie sono davvero variegate, abbiamo scoperto appunto che non tutte vengono dal nord, non tutte fanno parte dei grandi partiti, ma appunto sono storie molto diverse anche a livello di formazione e di esperienza politica precedente. C'è una storia in particolare a cui tu sei un po' più legata? Sì, queste donne appunto hanno esperienze diverse, anche se per la maggior parte sono donne che hanno potuto comunque in parte studiare e avere una formazione che anche rispetto diciamo a quella che era la percentuale allora dell'istruzione femminile è significativamente alta. Tra queste però ci sono anche delle autodidatte E in questo, ad esempio, Teresa Nocia è una figura, insomma, molto, molto bella, molto, insomma, che mi ha colpito molto, insomma, nel un po' approfondire il suo percorso. E lei invece era una figlia di una famiglia poverissima di Torino, ha dovuto iniziare a lavorare fin da giovane, ma giovane vuol dire 11-12 anni, e non ha potuto, per cui ha dovuto abbandonare gli studi nonostante fosse, insomma, curiosa e anche appassionata, e però ha voluto comunque studiare, imparare, per cui ha lavorato tutta la vita, allo stesso tempo, come dire, si formava, studiava, e pensare che appunto una persona come lei poi abbia avuto, no, anche la forza da una parte, dall'altra anche il riconoscimento di entrare in Parlamento, di essere parte, insomma, di questo grande progetto politico che è stata la scrittura della Costituzione, insomma, mi sembra un bel segno, un bel messaggio, anche perché ancora oggi, insomma, c'è un po' questa idea che ci debba essere come una sorta di elite che si occupa della cosa pubblica e del governo, mentre invece penso che ci sono tante risorse, e anzi il compito dello Stato, della Repubblica, dovrebbe essere proprio quello di liberare queste risorse, di dare l'opportunità anche chi, diciamo, non per non certo per merito suo, insomma, si ritrova in condizioni di svantaggio, e però invece appunto è una risorsa, e lo Stato dovrebbe, e questo anzi è una cosa importante che c'è nella Costituzione, dell'impegno appunto dello Stato e della Repubblica per rimuovere questi ostacoli, perché effettivamente ciascuno e ciascuna possa sviluppare le sue capacità, insomma, i suoi. E lei, insomma, per cui secondo me è una, insomma, proprio una bella figura. Dall'altra anche, insomma, quando poi anche in questi anni abbiamo incontrato i ragazzi nelle scuole, c'è sempre anche il riferimento a Teresa Mattei, che era la più giovane, aveva 25 anni quando è stata eletta, e anche questo, insomma, un po' al giorno d'oggi un po' sorprende, no? Pensare, sì, di certo. Come certo, quelli erano anni in cui, insomma, anche si cresceva anche in fretta, poi, insomma, c'era stata la guerra, però l'importanza, no, anche delle risorse delle nuove generazioni, no? che hanno forza, energia, voglia, possono portare anche magari quella voglia di cambiamento e innovazione, insomma, di cui ce n'è bisogno. Abbiamo bisogno, sì. Va bene, io ti ringrazio molto per questa bella intervista, e speriamo appunto grazie che il libro si diffonda tantissimo, e ti saluto. Grazie mille. Ciao, a presto. Ciao. Grazie ancora a Micol Cossali, la nostra ospite, e alla bella intervista di Debs. Prima di lasciarvi in questo sabato di giugno, vogliamo ricordare che oggi pomeriggio c'è l'appuntamento ai Giardini Margherita, un appuntamento organizzato dai COBA Scuola Bologna, che si chiama La Scuola in Piazza, non c'è sicurezza senza risorse, per chiedere un rientro a scuola a settembre in sicurezza e un piano straordinario per docenti. Noi speriamo davvero che si possa rientrare a scuola a settembre, e intanto vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Un grande abbraccio da Olga.